Spazio estate, viaggi. Prima puntata. Buenos Aires, Argentina. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere, non è nell'amore. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. ¿Por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien entre tú y yo. No tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad a momenti. È futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ancora qualche piccola prova di volume e iniziamo con la seconda stagione di Spazio Estate. La prima stagione andrò in onda su queste frequenze nell'estate del 2020 in 10 episodi. Il format ricomincia con questa prima puntata di Spazio Estate che diventa Spazio Estate Viaggi e a breve capirete perché. È futuro incerto. Spazio Estate Viaggi è un programma di intrattenimento culturale firmato Don Pierce in onda sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Don Pierce è un progetto di attivismo culturale che parte nel 2009, viaggia sulle onde di diverse radio, fotografa realtà di diversi paesi e si racconta in diverse lingue. Perché voglio credere. Spazio Estate Viaggi andrà in onda per i prossimi 90 minuti, una volta a settimana, fino alla fine dell'estate, e si comporrà di una decina di episodi. Come molti e molte di voi sapranno, iniziano le ferie per diversi programmi qui in radio. E inoltre, la redazione è molto impegnata con i preparativi della 30ª edizione della festa in Radio Onda d'Urto, e quindi ad animare le frequenze c'è Spazio Estate Viaggi. Lo sabemos muy bien. Vi presentiamo immediatamente la struttura di questo programma. Inizieremo con il racconto del viaggio di Giacomo, ciclo viaggiatore inesperto che lo scorso febbraio ha viaggiato in Sud America. Il viaggio si è svolto in tre paesi, Argentina, Bolivia e Perù. 5.000 km su due ruote non motorizzate da Buenos Aires a Lima. E nella prima parte quindi Giacomo vi parlerà dell'esperienza del viaggio in bici, come si prepara e come si organizza un viaggio in bici, cosa mettere nella valigia, come decidere l'itinerario, dove dormire, dove mangiare, come organizzare la logistica. Potete indirizzarvi sulle pagine Facebook e Instagram donpears.it per trovare le foto di viaggio e tramite queste pagine potete anche interagire con Spazio Estate. Questa introduzione con il racconto del viaggio in bici serve in realtà a presentarvi gli incontri più interessanti avvenuti in questi paesi. Infatti, nella seconda parte del programma vi proporremo un'intervista ad una delle realtà incontrate durante il viaggio. ci siamo focalizzati su organizzazioni, collettivi e in generale realtà associative e di movimento. I gruppi incontrati sono impegnati in diverse lotte sociali e lavorano su tematiche affini a quelle trattate su queste frequenze. Per questo motivo abbiamo incontrato diversi movimenti femministi, una televisione di movimento, gruppi che si occupano di lotte ambientali, centri culturali e anche una scuola autogestita. Infine, a conclusione del programma, la rubrica di approfondimento Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina, a cura di Mirko. Questo spazio sarà complementare ai luoghi del viaggio e ai contenuti dell'intervista. Ci focalizzeremo su alcuni autori e autrici più significativi per l'America ispanica e vi consiglieremo alcune delle letture più interessanti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Di hippie, di ripi, di riti, di riti. Qué lindo, qué lindo. A los brothers pone un ritmo. También busca la verdad. No se meta con el monstruo que la pueden aplastar. Galindo, qué lindo. A los brothers pone el ritmo. Ella es Galindo, qué lindo. A los brothers pone el ritmo. È ora in onda su Radio Onda d'Urto la prima puntata di Spazio Estate Viaggi. Durante la trasmissione vi presenteremo il viaggio in bicicletta di Giacomo, che ha percorso le strade da Buenos Aires a Lima passando per La Paz, la scelta, i preparativi e finalmente l'arrivo a Buenos Aires. In seguito ascolteremo l'intervista del primo incontro di questo viaggio in bicicletta. Lucia Macagno e Gianluigi Gurgigno ci porteranno negli studi di Barricada TV, televisione di militanza basata nella capitale argentina. Infine la rubrica di Mirko ci parlerà di Rodolfo Walsh, personaggio scelto perché è uno degli esempi di giornalismo e di militanza che ispirano il lavoro di Barricada TV. Ne approfittiamo di questa introduzione per ringraziare Fernanda che ha prestato la sua voce per l'intervista. E la fine di questo brano che celebra Maria Galindo, che è forse la più nota attivista femminista boliviana, che è parte del collettivo Mujeres Creando di La Paz, iniziamo con il racconto del viaggio in bicicletta. Spazio, estate, viaggi. Questo racconto non ha nulla di straordinario. Ci sono podcast, libri, documentari, video di cicloviaggiatori e cicloviaggiatrici che hanno pedalato per mezzo mondo. Si intendono perfettamente di meccanica della bicicletta, hanno decine di migliaia di follower sui social, hanno tenuto conferenze con sale piene di persone per raccontare il loro viaggio. Diversi di loro riescono a vivere pedalando, soprattutto perché lo fanno da molto tempo. Non è questo il mio caso. Questo è un racconto molto più semplice. Vuole certamente promuovere l'uso della bicicletta come mezzo alternativo di mobilità in ogni circostanza, ma serve specialmente per raccontarvi alcuni incontri curiosi e che magari potranno essere di ispirazione a chi ci sta ascoltando. Incontri con associazioni, gruppi, collettivi avvenuti durante i 5.000 chilometri che separano Buenos Aires da Lima. Ho sognato per molto tempo di fare un viaggio in bici, di pedalare tutti i giorni per settimane e forse mesi. Non ero sicuro di farcela. Non sono uno sportivo professionista, assomiglio di più ad un ciclista della domenica, ma senza la tutina attillata con tutti gli sponsor. Sì, vabbè, vado anche regolarmente in piscina per combattere il mal di schiena e ogni tanto vado a correre, ma sono avulso dalle competizioni e non seguo regolarmente nessuno sport, nemmeno la televisione. Però mi è sempre piaciuta la bici. Vado a scuola in bici dalle superiori, poi all'università e poi al lavoro. Non ho mai posseduto un'automobile. Da anni uso la bici per andare a fare la spesa, per uscire la sera, per andare a trovare gli amici. Ma non l'avevo mai usata per andare in vacanza, per fare un viaggio lungo. Ho 37 anni e per il mio primo lungo viaggio in bicicletta ho aspettato anche troppo. Ho iniziato a maturare una voglia matta di viaggiare agli inizi del primo confinamento, primavera 2020. Ovviamente in quel periodo la voglia di essere altrove, di uscire, di incontrare persone era agli apici di sempre. Ero molto impegnato con il mio lavoro precedente, a computer tutto il giorno, a casa, da solo. Oltre al lavoro però, un po' per ingannare il tempo, un po' per prendere pause, e un po' per riempire le lunghe serate in solitaria, ho cominciato ad informarmi meglio su cosa potesse davvero significare intraprendere un lungo viaggio in bici. Internet era chiaramente l'unico mezzo che, stando obbligatoriamente chiuso in casa, mi permetteva di capire come potevo organizzarmi. Le ricerche, una volta cominciate, si susseguivano sempre più assidue. Qualsiasi informazione era buona. I blog, i video, le piattaforme per cicloturisti, i social, le agenzie di viaggio e soprattutto la mappa. Ho scoperto un mondo nuovo. Ci sono tante persone che viaggiano in bici, in tutti i continenti. Naturalmente, solo una piccola parte di loro raccontano dei loro viaggi alla rete. Questo non significa che le informazioni accessibili siano poche. Non ho usato una metodologia di ricerca particolare, ma seguivo piuttosto l'istinto. Surfando da un sito all'altro, ho scoperto un sacco di cose. C'è chi fa viaggi estremi, ma non era quella la mia intenzione. Scopro infatti, per esempio, che un ciclista italiano, un ventenne, in pieno confinamento, stava attraversando la Siberia e alcune delle regioni più fredde del mondo. Viaggia da solo, dorme in tenda, ma anche con temperature di 30-40 gradi sotto zero. Ogni mattina, a risveglio, si deve preoccupare di scongelare le sue riserve d'acqua con un fornellino. Ha percorso migliaia di chilometri con temperature folli, in luoghi dove non si incontra nessuno per centinaia di chilometri. Questo tipo di viaggio mi pare un po' troppo estremo per i miei gusti. Inoltre non ho l'esperienza adatta. Però sono molto affascinato, seguo costantemente i movimenti di questo viaggiatore sui social e mi faccio ispirare. Il viaggio, all'interno della mia mente, mi rendo conto, è già iniziato. Un altro cicloviaggiatore che mi ha affascinato è quel famoso cantante che scrive canzoni, a mio avviso banali, che però hanno molto successo. Anche lui, ho scoperto, ha la passione per la bici. ha fatto un gran bel viaggio che per sua fortuna si è conclusa appena prima che tutte le frontiere del mondo si chiudessero per diversi mesi. In viaggio con lui aveva una GoPro e un cellulare con il quale si filmava costantemente. Essendo una celebrità, la televisione nazionale gli ha comprato tutti i video, li ha montati e li ha trasmessi in una serie di micro episodi da 15 minuti che raccontano il suo viaggio. Sono stato incuriosito dal format proposto dalla televisione e ho cominciato a guardarlo, approfittando appunto delle lunghe serate, forzatamente, senza impegni, imposte dal confinamento. L'idolo delle masse ha scelto un itinerario meraviglioso. Arriva a Santiago de Chile in aereo, con bagaglio bicicletta. Con un autobus viaggia fino a nord del paese ed inizia una traversata di poco meno di 3.000 km che lo porta in Argentina. Attraversa il deserto di Atacama, sale oltre i 5.000 metri. I dislivelli sono impressionanti. Di questo format televisivo mi piacciono i paesaggi, deserti per moltissimi chilometri. Mi piacciono le inquadrature dei lama, dei laghi, della montagna, delle cime innevate e anche dei pochi paesini di cui si vedono le immagini. Non riesco a fare a meno di guardare tutte le puntate del suo viaggio. Cerco di capire come si organizza la logistica e in generale quello che non si vede dalla telecamera. Poi lui in realtà qualcosa spiega. Si parla un po' del tipo di bici che ha usato, alcuni posti in cui si ferma a dormire, cosa mangia. Però è difficile capire tutto se non si è mai fatto un viaggio del genere. Tuttavia per me è una fonte di ispirazione. Sono letteralmente rapito dai colori, dagli spazi aperti senza nulla. Vivendo in città molto affollate, sono affascinato da paesaggi dove all'orizzonte si vede solo la natura, dove non ci sono costruzioni. La sua avventura sembra più adatta al tipo di viaggio che voglio fare io. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor. Comincio quindi a pensare che il Sud America sia una meta ideale per un viaggio in bici. Pensavo di partire a gennaio, quando in Europa fa freddo, però nell'emisfero australe è estate. Non ho voglia di viaggiare al freddo, ma nemmeno al caldo estremo. Vorrei il più possibile evitare forti piogge, anche se questo è più difficilmente prevedibile. Valuto altri aspetti positivi del Sud America. Innanzitutto non ci sono mai stato. In più si viaggia senza dover domandare visti in anticipo. Il visto si ottiene gratuitamente e direttamente alla frontiera. Altro motivo importante che condiziona la mia scelta è il fatto di saper parlare un pochino lo spagnolo. Escludendo il grande Brasile, lo spazio per viaggiare usando questa lingua è enorme. Penso che saper parlare la stessa lingua di un luogo scelto per un viaggio non sia indispensabile, però aiuta. Inoltre, mi pare anche una buona occasione per mantenere in esercizio la lingua spagnola e magari migliorare un po' le mie conoscenze grammaticali. Il Sud America è molto grande, è un continente di cui conosco un pochino la storia. Alcune delle mie conoscenze ci sono state, mi hanno raccontato. In Europa conosco e frequento alcuni colombiani e degli argentini, bella gente, che mi ha sempre messo la curiosità di conoscere le terre nelle quali sono nati. Ma se devo fare un viaggio in bici, da che paese partire? Mi fisso appunto sulla Colombia e l'Argentina. Nel primo di questi due paesi ho dei contatti, due amici e un'amica europei che sono molto stretti e che in questo momento vivono in Colombia. In Argentina invece non conosco nessuno. Penso però che viaggerò da solo in un continente che non conosco. Penso che l'Argentina è un paese del Sud America dove si può viaggiare più serenamente, c'è più sicurezza. Mi devo innanzitutto abituare al continente sudamericano, penso, e quindi ci metterò del tempo a capirlo, a sapermi destreggiare. Opto allora per quello che tra i due di questi paesi mi sembra il più facile, l'Argentina. Faccio ulteriori considerazioni. Intanto, se parto a gennaio, significa che in Argentina è piena estate. Penso poi che in Colombia, eventualmente, ci potrei comunque arrivare. E lì la questione climatica è meno rilevante. Trovandosi all'equatore, infatti, non ci sono stagioni come si conoscono in Europa. Meglio quindi iniziare dal caldo, per poi eventualmente continuare verso nord. In questo modo ho quindi scelto la città di partenza, Buenos Aires. Ho scelto la città dalla quale partire. Sono eccitatissimo. La destinazione e il periodo del viaggio sono le prime scelte fondamentali. Mi renderò conto in seguito che la scelta è una costante del viaggio in bici. In tantissimi momenti, infatti, ti trovi davanti a un bivio. Naturalmente questo succede in strada, per esempio devi scegliere se andare a destra o a sinistra, ma è importante scegliere, altro esempio, a che ora fermarsi, dove dormire, dove mangiare, cosa comprare. Può durare più o meno tempo, ma la scelta comporta l'esclusione di un'altra cosa e quindi condiziona sempre l'avventura. 3 mesi prima di partire ho fatto il passo principale, prenotare il biglietto aereo. Prenoto sull'andata, mi sento più libero e non sono obbligato a decidere da dove e quando tornare. Allego al mio biglietto il bagaglio speciale bicicletta. È la prima volta che mi capita. Scopro che non è difficile né particolarmente costoso. Come qualsiasi bagaglio da imbarcare in un volo, è molto importante rispettare le dimensioni e il peso per non incorrere in penali. Recupero un cartone portabici usato in un negozio di biciclette. Seguo le indicazioni della compagnia aerea. È obbligatorio sgonfiare i pneumatici e smontare la ruota davanti. Bisogna smontare anche i pedali e il manubrio. Non l'ho mai fatto, ma me lo faccio spiegare dal mio meccanico di fiducia e ci riesco senza problemi. In questa occasione ne approfitto anche per fare un controllo della bicicletta. Cambio la catena, mi faccio controllare i raggi, i freni, stringere un po' i bulloni e la bici è pronta. Imballo il cartone con la bici nella pellicola da cucina, arrotolo tutto con abbondante nastro adesivo e il mio super bagaglio è pronto. Mi ero già comprato 5 borse specifiche per i viaggi in bici. 2 si agganciano al portapacchi, altre 2 alla ruota anteriore, 1 al manubrio. Ho riflettuto a lungo su cosa mettere nelle borse che avrebbero rappresentato la mia casa, o meglio il mio armadio, per qualche mese. Ho pensato e ripensato di aver caricato troppa roba. Infatti all'aeroporto i miei bagagli, bici compresa, pesano 50 kg. Sommati ai miei 80 kg, alle riserve d'acqua e cibo che avrei avuto durante il viaggio, significa trasportare oltre 120 kg per migliaia di chilometri. In realtà penso anche che un chilo in più, un chilo in meno non facciano tutta questa differenza. Quello che ho messo in valigia l'ho un po' copiato dai blog dei cicloviaggiatori esperti, oltre a farmi anche consigliare da amici appassionati di montagna, quindi di bagagli essenziali. Innanzitutto qualche accessorio per la bici, un paio di camere d'aria di ricambio, una pompetta per gonfiarle, un mini set di attrezzi multiuso tascabile per stringere o allentare viti e bulloni, 3 raggi di ricambio che attacco al telaio con uno scotch telato, una catena nuova, un lubrificante per ingrassarla. Per pedalare ho portato 2 magliette in tessuto sintetico, di quelle che si asciugano in fretta, 2 pantaloncini da ciclismo con imbottitura, 2 paia di calze, i guanti, gli occhiali da sole, il casco, le scarpe da bici, quelle che si attaccano ai pedali, e una bandana per riparare il collo da freddo e sole. Ho anche uno zainetto che contiene una sacca da 3 litri per mettere acqua, con una cannuccia per bere mentre pedalo. Altro materiale che ho messo in valigia serve per quando non sono in sella. 2 paia di pantaloni lunghi della tuta, 3 magliette, 3 mutande, 3 paia di calzini, 2 pile, un maglione di lana, una giacca leggera, un impermeabile, 2 paia di pantaloni corti, 2 canottiere, 2 camicie un po' casual, un berretto, una sciarpa, un asciugamano in tessuto sintetico, così anche quello si asciuga rapido, un paio di ciabatte, uno di scarpe. Altri accessori che carico, anche per il tempo libero, sono qualche libro, una cassa audio per ascoltare la musica, accessori per l'igiene intima, qualche medicina, un fornellino da campeggio, una gavetta, coltellino, la tenda, il sacco a pelo, il materassino, un coscino gonfiabile, il telefono, un po' di contanti che userò soprattutto in Argentina. Nel mio primo paese di destinazione, infatti, avere contanti è fondamentale. L'Argentina ha una relazione molto complicata con la propria moneta. Esiste di fatto un mercato di cambio parallelo a quello ufficiale. Il peso sargentino è soggetto a continue svalutazioni e questo costringe molta gente ad avere riserve in altre monete più stabili, come euro o dollaro. Per questo basta andare di fronte a qualsiasi negozio di cambio e si incontrano i cambisti non ufficiali, personaggi assolutamente affidabili che ti danno il doppio dei soldi che ti darebbero in una banca o in un ufficio di cambio. In questo modo la vita costa la metà. Tutto il materiale lo stocco insieme alle mie 5 borse per la bici in uno scatolone che diventerà il bagaglio da imbarcare. Tra i preparativi non ho sottovalutato la questione della salute. Ho fatto un'assicurazione di viaggio online. Al momento della mia partenza, per l'ingresso in Argentina, è obbligatoria un'assicurazione che copra spese mediche dovute al Covid. Scelgo quindi un'assicurazione viaggio che copra tutte le spese mediche. Purtroppo, in questo caso, la devo pensare in negativo. Se mi facessi male o se avessi bisogno di consultare un medico, l'assicurazione europea non coprirebbe nulla. Mi preoccupo poi della questione vaccini. Innanzitutto completo il ciclo vaccinale contro il Covid. Il vaccino completo e il test molecolare 72 ore prima della partenza sono obbligatori per entrare in Argentina. Verifico anche il mio libretto delle vaccinazioni e scopro che devo fare ben 4 richiami per proteggermi da epatite B, febbre tifoide, poliomielite, difterite, tetano, pertosse e febbre gialla. Quindi vado a farmi questi vaccini. Il medico mi suggerisce di fare anche il vaccino contro la rabbia. Mi dice che è particolarmente raccomandato per le persone che lavorano con gli animali e per i ciclisti. Faccio anche delle analisi del sangue e un controllo odontoiatrico. Mi preoccupo infine di portare con me paracetamolo, ibuprofene, vitamine, proteine e carboidrati in polvere. Per precauzione compro anche un antidiarroico e un farmaco per il mal di montagna. E così chiudo anche il capitolo salute in viaggio. E lì dove andavo a volare se mi stavo in casa? Penso che non sia mai stato così difficile partire in viaggio in un altro paese come in questo periodo. Non ho mai dovuto avere tutti questi documenti per imbarcarmi su un aereo e ho paura di dimenticare qualcosa. Ho con me il biglietto, il passaporto valido per i prossimi 5 anni, l'assicurazione contro il Covid, il certificato di vaccinazione contro il Covid con le 3 dosi, il test PCR negativo, la dichiarazione giurata per la dogana argentina, che è obbligatoria, si compila online. Fino all'aeroporto ero davvero teso. Fortunatamente ho tutti i documenti in regola. Ricevo il mio biglietto, mi imbarco e in meno di 24 ore atterro a Buenos Aires. Non sono mai stato in Sud America e Buenos Aires è nella mia testa una città mitica. Decido di starci almeno una decina di giorni. Molti cicloviaggiatori rimontano la bici in aeroporto e partono direttamente, ma in questo caso mi è stato sconsigliato, poiché la strada che esce dall'aeroporto è poco adatta ai ciclisti. Buenos Aires è abbastanza costosa per dormire, come tutte le grandi città. Quindi mi muovo subito per cercare un alloggio diverso da quello prenotato per le prime notti. Grazie al contatto di un amico argentino che vive in Europa, finisco al centro Oleiros. Si tratta di uno spazio molto grande, a San Telmo, zona centrale della città. Qui dentro si svolgono corsi di yoga, tango, tessuti, circo, giocoleria, incontri di danza contact. Il custode del centro sta partendo per le vacanze ed è ben contento di offrirmi l'alloggio a patto di sfamare il gatto ed abbeverare le piante. Nei primi giorni vago per il quartiere di Palermo. Faccio subito amicizia con il ragazzo che mi affitta la camera e i suoi amici. Giro in bici per la città. Ci sono molte piste ciclabili, la bici è molto usata, ma nonostante le lunghe distanze. Scopro una metropoli maestosa, enorme. Mi lascio sedurre dalla bellezza dei palazzi nei grandi viali alberati, dall'obelisco, dalla Plaza de Mayo, la piazza che reclama giustizia, dalla Casa Rosada, dove lavora il presidente, dal congresso, di fronte al quale hanno luogo le più grandi manifestazioni del paese, dagli stadi, tra cui la famosa Bombonera, dai parchi. La città pullula di teatri, di librerie, il che mi fa pensare ad un'abbondante vita culturale. Della città mi colpiscono da subito i manifesti e i graffiti, soprattutto quelli contro il Fondo Monetario Internazionale, responsabile di aver contribuito al dilagare della povertà nel paese con le sue famose riforme strutturali. Allo stesso modo, il culto nei confronti di Maradona, impresso su murales presenti in ogni quartiere. Mi innamoro della bellezza di alcuni ristoranti e bar, dalle insegne dorate. La sera entro in qualche milonga per ascoltare il tango, ma solo nei locali più spartani, perché nei migliori bisogna entrare vestiti molto eleganti e nella mia valigia da cicloviaggiatore non c'è nulla di adatto. Il luogo che mi impressiona di più è l'ex ESMA, la vecchia scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina. Questo posto diventò dal 1976, anno in cui iniziò l'ultima dittatura, il più grande centro di detenzione e di tortura di dissidenti di tutto il paese. Da qui passarono migliaia di persone e quasi tutte vennero uccise o gettate da aerei militari al largo del Rio Plata. Passeggiando e pedalando per la città, vengo attirato dagli adesivi sui pali. Alcuni di loro mi fanno capire che anche l'attivismo politico in città non manca. Scopro dell'esistenza di Barricada TV. Contatto la redazione per andare a vedere lo spazio. Gli studi di Barricada TV si trovano all'interno della fabbrica INPA, un'azienda recuperata dai suoi lavoratori e lavoratrici. Fotografo e ammiro i murales all'esterno dell'edificio. Viva la educación popular! Lucha, trabajo y cultura. Resistencia y educación. El silencio no es salud. Sono questi alcuni degli slogan che mi colpiscono di più. Finalmente arriva il mio contatto, mi fa entrare e questa è l'intervista che ne ho ricavato. Bueno, mi nombre es Lucía Magaño, soy integrante de Barricada TV. Il mio nome è Lucía Magaño, faccio parte di Barricada TV, laureata in Scienze della Comunicazione presso la UBA, Universidad de Buenos Aires, e sono anche insegnante. Io sono Gianluigi Gurgigno, anch'io faccio parte di Barricada TV, sono italiano, faccio parte di questo spazio dal 2017, sono antropologo, ex ferroviere delle Ferrovie dello Stato, fotografo, insomma, questo. Quando è nata la fabbrica INPA e quali sono stati i momenti storicamente più rilevanti? Bueno, la fábrica nació a mediados del siglo XX, más o menos desde 1950. La fábrica INPA è sorta alla metà del XX secolo, più o meno nel 1950. Si tratta di una fabbrica molto importante perché era nata come fabbrica metallurgica e continua ad esserlo ancora ad oggi. Però la realtà è che con la crisi economica che ha attraversato il paese, la fabbrica ha iniziato una produzione legata alla metallurgia, però più leggera, prodotti più piccoli, per così dire. È diventato un simbolo per il nostro paese perché è la prima fabbrica recuperata. È stata recuperata nel 1998. Prima aveva funzionato per un periodo come cooperativa, però in modo fraudolento, cioè per mezzo di una società anonima che si autodenominava cooperativa, ma che in realtà non funzionava come tale. A partire da questo momento, i lavoratori e le lavoratrici hanno deciso di recuperare l'edificio. Nel 1998 lo recuperano, entrano nella struttura e nel 2015 ottengono il decreto di espropriazione definitiva, che implica che, nonostante l'edificio sia proprietà dello Stato, può essere utilizzato solamente dalla cooperativa dei lavoratori che avevano recuperato l'edificio, dalla scuola popolare e dal centro culturale che funziona nella fabbrica. E questo è un fatto molto importante perché credo che una delle cose che caratterizzano la storia dell'INPA è proprio la sua recuperazione. Questo aprire le porte al quartiere, non solo per il recupero dei posti di lavoro, ma anche per dare voce a differenti espressioni della società civile, come le istanze educative e culturali, e altre che si vanno ad incorporare alla vita quotidiana della fabbrica e che vogliono che questa forza, questa richiesta di recuperazione sia così importante. E quindi attualmente quali organizzazioni lavorano all'interno di questi spazi e quali attività propongono? Bueno, además de la cooperativa de trabajadores y trabajadoras, hay un centro cultural. Oltre alla cooperativa di lavoratori e lavoratrici, è attivo un centro culturale, una scuola superiore popolare, la quale permette che studenti di grado secondario possano terminare il percorso scolastico. Poi c'è una cooperativa di disegno grafico sostenuta da alcune compagne. È attiva una radio comunitaria e c'è anche un canale televisivo, che sarebbe Barricada TV, e che è anche una cooperativa che produce trasmissioni. Infine c'è un centro per pensionati e una libreria cooperativa che funziona all'interno dell'edificio. Trasmissores y después también hay un centro de jubilados y además una librería también cooperativa que funciona dentro dell'edificio. Mi potresti spiegare meglio come funziona il collettivo dei lavoratori e delle lavoratrici della IMPA? Y el colectivo de trabajadores en su mayoría son aquellos laburantes que pudieron recuperar el edificio 1998. Il collettivo di lavoratori è formato per la maggior parte da quei lavoratori che hanno recuperato l'edificio nel 1998. Alcuni nel tempo si sono pensionati e altri si sono incorporati. La verità è che durante tutto questo tempo hanno sostenuto questi posti di lavoro. Sono stati un esempio per questo tipo di fabbriche che poi hanno intrapreso il percorso di recuperazione e sono i promotori del Movimento Nazionale di Imprese Recuperate, che è un movimento che riunisce molte fabbriche recuperate nel paese e che serve o funziona come una specie di collettivo in cui la socializzazione del sapere e dei percorsi utili per recuperare uno spazio di produzione sono fondamentali. Perché chiaramente c'è una gran quantità di ostacoli che si sono presentati per ogni esperienza. E in questa maniera si accompagnano le esperienze più nuove affinché questi ostacoli non si ripetano, per fornire un'esperienza solida ai nuovi percorsi di recuperazione e facilitare così il lavoro alle imprese che si vanno incorporando sul cammino della recuperazione. E ciò non è una cosa minore, perché a partire dal Movimento Nazionale di Imprese Recuperate si è andata formando una direttiva di imprese recuperate all'interno del governo eletto nell'anno 2019. Il governo del Frente de Todos incorporò nel Ministero dello Sviluppo Sociale una direttiva per le imprese recuperate, il che è sul serio una cosa molto importante, perché al giorno d'oggi le imprese recuperate in Argentina, dopo questa del 1998, non ricordo esattamente, però sono un gran numero di imprese recuperate e anche di esperienze di lavoro cooperativo che sono imprese recuperate, però scelgono comunque la forma della cooperativa per organizzarsi. Quindi, a partire da queste direttive, si creano politiche pubbliche atte ad accompagnare queste esperienze e renderle possibili. Perché quando qualcuno recupera una fabbrica, poi sorgono un sacco di questioni amministrative, legali, burocratiche che il lavoratore basico deve affrontare da un giorno all'altro, questioni di cui poco prima si incaricava il padrone e la cui responsabilità passa di colpo ai lavoratori che le devono affrontare. E questo accompagnamento, queste direttive sono fondamentali perché questi tramiti burocratici possano essere risolti nella maniera più semplice. Esos huecos, digamos, dentro della burocrazia del Estado se risolvano in maniera più semplice. Com'è il rapporto tra la fabbrica IMPA e il quartiere nel quale è ubicata? Bueno, es la realidad que la fábrica está ubicada en un barrio de clase media, media alta, digamos. La fábrica si trova in un quartiere di classe media, medio alta, quindi il rapporto non è cattivo. Però non è così fluido come succede con altre strutture ubicate in quartieri di lavoratori. C'è una gran affluenza di pubblico. Per esempio per le opere organizzate dal centro culturale. Sto parlando di prima della pandemia. Sappiamo che la pandemia ovviamente è stato un grande ostacolo per numerose esperienze e progetti. Credo che proprio il centro culturale o il centro per pensionati, che sono spazi che per le loro caratteristiche hanno un legame molto più forte col quartiere, sono riusciti a stabilire in qualche modo una connessione con la comunità, che forse per una cooperativa di lavoro sarebbe stato più difficile creare. Il centro culturale comprende una compagnia di teatro stabile che si chiama Teatro Sanitario di Operación, TSO, che mette in scena un'opera ogni fine settimana, prima della pandemia. E inoltre procurava lo spazio per altre compagnie teatrali e altre esperienze culturali. Per esempio, la fabbrica prende parte alla Notte dei Musei, che è un'attività che si organizza ogni anno a Buenos Aires. Quindi mi sembra che questo tipo di azioni hanno creato in tutto questo tempo un rapporto con il quartiere che inizialmente non era stato facile, per quello che dicevo. Il fatto che si tratta di un quartiere di classe media, medio-alta, ha fatto sì che molte volte si consideri come la fabbrica di quei lavoratori che l'hanno occupata. E in generale tutti questi pregiudizi che nascono molte volte quando avviene un'occupazione, una recuperazione di uno spazio di lavoro, e mi sembra che tutto ciò con il tempo si è stabilizzato in questa maniera. Con le opere di teatro, con lo spazio per i pensionati, col centro culturale e anche con la scuola popolare. Mi sembra che la strategia è stata pensare a spazi che avrebbero potuto creare un beneficio per la comunità, che aprissero la fabbrica alla comunità e che offrissero un servizio alla comunità. E credo che in questi anni ci sia riusciti. E credo che con questo, a lo largo di questi anni si ha potuto, diciamo, ir logrando. Fuerza y la unidad es lo que vale hoy en la calle, que es nuestro territorio de lucha y de pelea. Generar una conciencia, que la gente se despierte, pase algo. Tanta miseria y discriminación. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha hecho las inversiones que el sistema educativo público de la ciudad necesita. Solo con el pueblo organizado en la calle y en lucha, como sabemos hacerlo, vamos a poder sacarlos de todo el continente. Que Estados Unidos vive invadiendo, agrediendo, matando. Llega la temporada de verano y empiezan los cortes de luz. En Argentina venimos alimentándonos a base de estos transgénicos como ningún otro país en el mundo. Es un acto de reivindicación de la mujer en la lucha. No quedó más alternativa que fundar una nueva herramienta gremial que les permita a los trabajadores luchar por sus derechos, por sus condiciones de trabajo y por mejores salarios. Bene, fino a qui abbiamo parlato della fabbrica occupata IMPA. Focalizziamoci ora su Barricada TV. Quali sono state le esigenze che hanno portato alla fondazione di questo canale televisivo e a chi si ispira il vostro lavoro? Sì, Barricada TV è una televisione che si è ispirata innanzitutto a Rodolfo Walsh, che è una figura molto conosciuta del giornalismo argentino. Un giornalista desaparecido dalla dittatura militare, l'ultima dittatura militare, un orizzonte per chi vuol fare giornalismo in modo indipendente. E Barricada TV è nata dall'esigenza soprattutto di esprimere attraverso questo tipo di giornalismo le lotte dal 2001 in avanti. È, diciamo, il germe, il germoglio di Barricada TV, lo si vede lì. Quando le lotte popolari successive alla crisi del 2001 hanno innescato la necessità di mostrare un racconto diverso da quello che era parte dei grandi medios, del monopolio comunicativo che c'è qui in Argentina, ma che c'è anche in Italia, e quindi posizionarsi con un'altra idea di giornalismo, cercando di raccontare in modo più approfondito, indipendente, senza condizionamenti politici, con autogestione, credendo nel lavoro collettivo, dal lato della classe lavoratrice, cercando un compromesso, un impegno che si ispira, come dicevo, all'impegno di partecipazione politica che è stato la caratteristica di Rolf Walsh, andando al di là del giornalismo in sé. Hai accennato velocemente al 2001, quelli erano anni estremamente complessi e drammatici per l'Argentina, però c'è anche da sottolineare che proprio in quel periodo sono nate moltissime organizzazioni, collettivi, sociali e popolari. E come mai secondo te? Sì, diciamo che il 2001 ha dato il là, ha sdoganato in qualche modo l'idea che ci può essere l'autogestione all'interno dell'ambito lavorativo, che l'autogestione funziona, che è un'alternativa percorribile ed è un'alternativa percorribile anche per fare giornalismo. E Barricada in questo senso ripercorre, diciamo, quella strada tracciata ai movimenti del 2001 per fare un giornalismo di questo tipo, che sia autogestito, collettivo, comunitario, innestato nel territorio, che non vuole dare una propria interpretazione di quello che accade, ma è uno spazio aperto affinché gli attori sociali possano parlare, possano esprimersi e riconoscersi, diciamo, in uno spazio di comunicazione che punta alla massività, ma si distanzia dalle logiche della narrazione di massa. E quindi a questo proposito, quali sono i principali punti di forza di questa maniera di lavorare e quali le debolezze? Io ti do la mia opinione in questo senso. Sì. Ah, secondo me il punto forte forse principale è il lavoro collettivo. Non è comune trovare in uno spazio di militanza come questo, ma soprattutto in uno spazio di comunicazione come un canale di televisione, una possibilità formativa e di scambio tecnico, politico, così come avviene a Barricada TV. Il lavoro collettivo è qui un valore aggiunto: dal momento in cui si entra a far parte dello spazio si assume un impegno che viene ricambiato in termini di formazione, come dicevo, politica e tecnica, e è qualcosa che molto probabilmente in altri ambiti lavorativi della comunicazione non si ha. Andando nello specifico, tutti al canale siamo formati e preparati per poter essere intercambiabili, ma a livello tecnico c'è uno scambio di conoscenze con la finalità di poter essere tutti utili nelle posizioni che sono funzionali al funzionamento del canale. E invece la formazione politica come avviene? La formazione politica è un altro elemento importante dell'essere parte dello spazio. Il canale di televisione in sé è un progetto di partecipazione politica, è uno spazio di militanza, non è soltanto un canale di televisione. La formazione avviene su diversi livelli. Ci sono sicuramente riunioni settimanali che possono avere caratteristiche tanto organizzative quanto politiche, di discussione, ma ci sono anche riunioni che possono essere mensili o cadenzate in modo diverso, nelle quali ci si confronta e si toccano temi che sono di interesse sia della partecipazione politica del canale quanto canale di televisione, ma anche di discussione su ciò che avviene a livello paese o a livello regione sudamericana, a livello internazionale. Algo entendí que fueron diciendo. Digo, además de una cosa que creo que es el diferencial de nuestro canal o un canal comunitario. Ciò che credo distingue il nostro canale, un canale comunitario, un progetto di comunicazione popolare, rispetto ai canali commerciali, a parte l'autogestione e dell'organizzazione, che è fondamentale, è il fatto di pensare a contenuti partendo da altre fonti di informazioni. Generalmente uno vede che nei canali commerciali si genera, diciamo, un mito del sapere autorizzato, che credo che i media comunitari cerchino di superare, perché andiamo nel quartiere a chiedere agli abitanti come affrontano la pandemia, come si sono organizzate a livello di comunità davanti a una circostanza come la pandemia. E può essere che queste voci nei canali commerciali non fossero le più visibili. Ciò che si vedeva era il medico, che è l'autorità scientifica, o il politico, che si mette a spiegare come si vive in un quartiere. Noi cerchiamo di invertire questa situazione e andare dalla vicina del quartiere, che pensiamo siano fonti autorizzate per parlare e raccontare come si attraversa o come si è affrontato il problema della pandemia in determinati posti. Quindi mi sembra si tratti di cambiare anche le voci o le fonti, e questo è un qualcosa che differenzia questi mezzi di comunicazione. Ovviamente poi facciamo anche l'intervista al politico, al medico, però mi sembra che precludere lo schermo a altre voci deve essere un po' lo slogan di questo tipo di media. Dare la voce a chi non ha spazi nei mezzi privati, nei media commerciali. Questo mi sembra una caratteristica importante. Parlando di debolezze, i media comunitari in Argentina hanno iniziato ad essere legali a partire dalla legge del servizio di comunicazione audiovisuale, che è passata nel 2009. Prima di questa legge, i media comunitari erano perseguiti, erano illegali, non potevano trasmettere. La società civile non poteva usufruire della comunicazione, era proibito. I media erano solo a scopo lucrativo, anche se nel nostro paese e in America Latina esistevano ed esistono storicamente numerose esperienze di comunicazione popolare, nonostante la persecuzione statale. Qui c'è una radio che si chiama Radio La Tribù, per esempio, nel barrio di Almagro, che da poco ha compiuto 30 anni, cioè effettivamente esistono esperienze che producevano comunicazione dall'illegalità, le cosiddette radio pirata. Questo sfasamento della storia fa sì che stiamo in un piano di diseguaglianza assoluta e profonda, perché la nostra storia, per quanto sia scritta ai margini della legalità, nasce nel 2010 con una serie di diritti e obblighi che noi stiamo imparando a conoscere mano a mano, perché tutti questi anni di legalità fanno sì che questo esercizio sia difficile da rafforzare, perché se non fosse stato a partire dalla militanza, dalla convinzione sulla comunicazione popolare, non esisteva un'esperienza che avrebbe potuto sussistere. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República, no se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. La hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. Vi chiedo dunque quali sono le tematiche principali trattate da Barricada TV. Bueno, es como en el sentido amplio diría esto que hablábamos antes. In un senso ampio, tutte quelle tematiche relazionate con i conflitti che riguardano la classe lavoratrice troveranno sempre spazio all'interno del canale. Nei media comunitari come Barricada TV ci occupiamo di dare spazio ai discorsi, alle storie, ai racconti che generalmente vengono ignorati dai media di massa. Mi sembra che si tratta di cambiare l'ottica, il punto di vista di dove facciamo comunicazione. Questo è ciò che cambia il paradigma della comunicazione. Insomma, mi sembra che i temi, per dare un titolo generico, sarebbero questi. Tutti i conflitti che in qualche modo hanno a che fare con la classe lavoratrice. Poi ovviamente da qui si ramificano mille argomenti. Il canale in sé cerca di essere un canale generalista. Ovviamente il notiziario, il telegiornale, è la trasmissione più importante per noi, perché lì plasmiamo il nostro sguardo sul mondo. Facciamo riunioni in cui discutiamo da che punto guardiamo la comunicazione, ma anche da che punto guardiamo il nostro paese e la regione. E tutto ciò si plasma nel segmento informativo, il telegiornale che facciamo. Allo stesso tempo il canale propone film, serie TV, programmi di cucina, ritrasmettiamo Telesur, Hispan TV, Russia Today. Ovviamente parliamo di uno sguardo particolare sulla regione e sul mondo. Però cerca anche di essere un canale che non sia un cumulo ossessivo di notizie. E questa forse è la sfida maggiore. Quando ci troviamo a fine anno per discutere, ci chiediamo questo: come fare per essere una televisione attrattiva senza lasciare indietro i nostri ideali, i nostri sogni per i paesi. Però al tempo stesso deve essere attrattiva, non una mitragliata di informazioni calate dall'alto per 24 ore. Deve proporre altri contenuti di interesse generale. È difficile riuscire in questa impresa perché i contenuti che riproduciamo sono di produzioni indipendenti, di altri canali compagni, di altri segnali regionali con cui abbiamo convenzioni. Cosicché il contenuto è un qualcosa che bisogna sviluppare e approfondire da un punto di vista differente rispetto alla comunicazione di massa. Non cadere sul contenuto classico di una serie Netflix, per esempio, che può essere molto buona. Però noi dobbiamo proporre fiction che siano da questa parte della barricata, per così dire. Questa è la parte più difficile, ma è anche quello su cui dobbiamo puntare in termini di sviluppo di contenuto, il che è una sfida, mi sembra. Desarrollo de contenidos, que es un desafío, me parece. Come si organizza il lavoro quotidiano di Barricada TV? Allora, il lavoro quotidiano di Barricada TV si organizza sia quotidianamente ma anche settimanalmente. Bisogna stare attenti sicuramente a cosa succede, perché l'agenda in qualche modo, come diceva Lucia, va seguita, non abbandonata a priori perché ne parlano anche altri. Quindi, diciamo, stare con le antenne su e cercare di capire quali sono i conflitti e dove potremmo andare a, come dire, a mettere i piedi per i microfoni per capire cosa sta succedendo. E quindi giornalmente ci possono essere dei programmi che vengono anche stravolti sulla base di ciò che accade. Il lavoro si organizza sia a corto termine, quindi che a medio e lungo termine, sulla base di quelli che possono essere sia appuntamenti che già sappiamo di voler coprire, che occasioni più diciamo estemporanee o qualcosa, o una marcia ad esempio che viene annunciata da un giorno all'altro, quindi in quel caso ci si organizza per andare a fare una copertura di quella marcia. Ci sono altre mobilitazioni sociali collettive che hanno dei tempi, delle anticipazioni più ampie, o ci sono dei voti in congresso particolarmente interessanti da seguire, per cui c'è modo di organizzarsi con più anticipo. Di base molto di quello che facciamo e di quello che seguiamo è in funzione poi di poter trasmettere appunto il notiziario della sera, e quindi organizzare i contenuti per riempire lo spazio del notiziario della sera, che è in diretta il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 8 alle 9 di sera. È in diretta sulla televisione digitale aperta, è in diretta su streaming YouTube. E l'organizzazione, noi siamo una dozzina più o meno, come ti dicevo, avviene sulla base delle esigenze. Siamo divisi in questo momento a livello operativo in due gruppi a causa del Covid, per cercare di limitare i rischi tra di noi. Le coperture avvengono di solito con coppie, per cui una camera e un microfono, e si va, diciamo, in strada, in piazza, a sentire cosa succede. E tendenzialmente ci sono gruppi minimi di lavoro per imbastire, diciamo, la programmazione e la realizzazione del notiziario, che richiede più o meno 4 persone almeno, e produzioni che si discutono giornalmente in chat. Tendenzialmente in questo periodo, da quando c'è stata la pandemia, è ovviamente limitata l'attività presenziale di riunioni di tutto il collettivo negli spazi del canale, della fabbrica, però insomma si arriva comunque ad avere degli incontri, ad avere delle decisioni attraverso Zoom, attraverso chat di altro tipo. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa intervista, però abbiamo ancora qualche minuto e ne approfitto quindi per chiedervi se avete qualcos'altro che volete aggiungere. Sì, io vorrei aggiungere una piccola appendice rispetto al tema. Prima abbiamo parlato di quali temi trattiamo e concordo con tutto quello che ha detto Lucia. Mi viene da dire, con uno sguardo esterno, che c'è molta attenzione alla sovranità nazionale, ed è una cosa che noi in Europa e in Italia non abbiamo molto, non maneggiamo con molta frequenza il termine sovranità nazionale, ma soprattutto con, diciamo, il punto di vista di un paese, di una regione che è stata colonizzata come l'America Latina, che oggi ancora ha con diverse modalità soffre la colonizzazione di multinazionali europee, di multinazionali nordamericane, di sfruttamento intensivo del lavoro, delle risorse. È un problema forte, un problema che è presente in agenda per noi in questi giorni, proprio parlando di sovranità. Un nostro compagno sta partecipando ad una marcia in zona patagonica, nel sud dell'Argentina, reclama la possibilità di accesso ad un lago, Lago Escondido, è un lago che fa parte del territorio nazionale argentino, che è da non so quanti anni parte, diciamo, di una proprietà di un inglese, di un magnate inglese, John Lewis, che non lascia, diciamo, il libero accesso a un territorio nazionale, a un lago nazionale, e da ormai diversi anni diverse organizzazioni fanno, diciamo, mettono in piedi questa marcia per arrivare, per sensibilizzare la comunità, per arrivare al lago e dimostrare, diciamo, che è un territorio su cui tutti potrebbero e dovrebbero mettere piede. E quindi, insomma, la sovranità è un tema non secondario, è sempre presente, e Barricada in questo senso non solo copre testimoniando e documentando, ma prendendo parte al percorso, alla marcia. Sì, a mediados de los 90 más o menos se vendió, digamos, se vendieron esos terrenos, esas tierras. Ovviamente in una maniera super irregolare. Sì, a metà degli anni 90 vengono venduti questi terreni, questa terra, ovviamente in un modo molto irregolare, visto che va contro il diritto costituzionale di accesso agli specchi d'acqua. È anche stabilito lì una strada d'alaggio, una certa quantità di metri tra lo specchio d'acqua e la strada che devono obbligatoriamente essere lasciati ad accesso libero e pubblico. Questo signore possiede un lago dentro la sua villa e non permette l'ingresso a nessuno. Nessuno può accedere al lago nonostante ci sia una decisione giudiziale risalente a circa 10 anni fa che stabilisce che deve lasciare un accesso pubblico al lago. Ovviamente non gli interessa ciò che dice la giustizia. Di fatto il tipo a suo tempo fu molto riconosciuto da parte di Macri, che ha trascorso le vacanze in questa villa. Tutto molto sceno, molto esposto alla relazione tra il potere e questo signore. Il caso di John Lewin è molto conosciuto per questa cosa del lago nascosto. Però è vero anche che nel nostro sud ci sono un sacco di situazioni simili a questa. Benetton, per esempio, che è stata una delle ragioni per cui ammazzarono Santiago Maldonado, perché le comunità mapuche stavano esigendo la proprietà di quei terreni che oggi sono di Benetton. In America Latina e in Argentina ci sono questo tipo di situazioni di presenza di capitale straniero e di abuso o di vendita di terreni illegali a capitale straniera. E molte altre situazioni di colonizzazione, e credo che questi temi sono parte centrale dell'agenda del canale. Poi mi sembra importante ciò che segnalava lui, Gianluigi, che Barricada non è solo un canale per dare voce e spazio, come si diceva prima, ma noi ci sentiamo e ci intendiamo come parte di questo spazio di militanza. Non andiamo a coprire qualche accadimento per poi dimenticarcene in pochi giorni. Al contrario, ci sentiamo parte di queste problematiche e cerchiamo di dare una continuità e visibilità storica a questi conflitti, analizzarli e seguirli nel tempo. Non è che andiamo in un quartiere senza acqua e andiamo a coprire la notizia spettacolarizzandola per poi andarcene e basta, come succede con le televisioni di massa. Al contrario, cerchiamo di aiutare come si può, a visibilizzare e tornare l'anno dopo per continuare ad accompagnare gli abitanti, in modo che non si tratti di un evento spettacolare o unico. Tutto ciò ha a che fare con l'intendere la comunicazione come militanza. Esto tiene que ver con entender a la comunicación como una militancia también. Estoy cansado de las luces apuntándome. La noche me pregunta pero no sé. Todos quieren todo, nadie sabe quién. Buenos Aires llama bajo slow flame. Oh, oh, fuck fame. Pa' apagar el fuego llego yo en rain. Vámonos del mundo, ma, you know I'm saying. Buenos Aires llama bajo slow flame. Se prende en fuego la ciudad. Yo siempre estoy de acá pa' allá. Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego de tu mira. Mami, se me está quemando el tiempo sin mi otra mitad. Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego de tu mira. Ahora el cielo solo me escucha a mí. Bentornati e bentornate su Spazio Estate Viaggi, Radio Onda d'Urto. Avete ascoltato la prima intervista a Barricada TV e le voci di Lucia Macagno e Gianluigi Gurgigno. Questa intervista è stata registrata a Buenos Aires a inizio febbraio e ve l'abbiamo proposta perché ci pareva una realtà interessante e da far conoscere su queste frequenze. Questo brano è Buenos Aires en Llamas di Trueno, nome d'arte di Matteo Palacios Corazzina, rapper ventenne di Buenos Aires, il cui ultimo album è uscito lo scorso maggio. Alla fine di questa canzone vi proponiamo un brano che abbiamo registrato noi, a Buenos Aires sempre, nel Tango Bar La Comparsita, locale di musica dal vivo specializzato in tango nel quartiere di San Telmo. La puntata continua con la rubrica di Mirko che oggi ci fa conoscere Rodolfo Walsh. Restate all'ascolto delle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Spazio, estate, viaggi. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Rodolfo Walsh, uno scrittore argentino tra letteratura, giornalismo e militanza politica. Di origine irlandese, Rodolfo Jorge Walsh è nato a La Marque, nella provincia di Rio Negro, il 9 gennaio 1927. Dopo un'educazione religiosa, si trasferisce a Buenos Aires all'età di 14 anni e lavora fin da piccolo in qualsiasi attività gli capiti a tiro, dalla pulizia dei vetri alla vendita di oggetti di antiquariato. Un lavoro come correttore di bozze e traduttore presso la casa editrice Hachette lo avvicina al giornalismo e inizia a collaborare con le riviste Leoplan, Panorama e Vea Ilea. A 26 anni pubblica il suo primo libro di racconti, Variaciones del Rojo, nel 1953, seguito da 10 storie di polizia argentina e Antologia del racconto strano. A quel tempo, a metà degli anni 50, Walsh viveva quasi a distanza dalla politica attiva. Da adolescente aveva flirtato con l'antiperonismo e la destra nazionalista e aveva persino difeso il golpe del 1955 contro Perón. Fu un evento ben preciso, relazionato con le sollevazioni peroniste contro la dittatura che si stava autodenominando Revolución Libertadora, a cambiare profondamente la visione dello scrittore. Si tratta delle fucilazioni che avvennero nel 1956 a José León Suárez, ai danni di civili accusati di partecipazione alle ribellioni contro la dittatura. Le fucilazioni clandestine di José León Suárez furono un episodio repressivo della rivolta del generale Juan José Valle contro la dittatura al potere, che portò all'esecuzione pubblica dello stesso generale Valle e di 17 militari ribelli, nonché all'esecuzione clandestina di 18 civili nelle città di Buenos Aires, di Lanús e di José León Suárez. La rivolta di Valle faceva parte di un movimento più ampio, noto come Resistenza Peronista, ma vi parteciparono anche civili e militari non peronisti che si opponevano alla dittatura. La data scelta per la rivolta dal generale Juan José Valle al comando dei cospiratori fu il 9 giugno 1956. Quella stessa notte Walsh, non ancora trentenne, stava pacificamente giocando a scacchi in un caffè di La Plata, quando alcuni colpi di arma da fuoco scuotono gli avventori del locale. La sua città è stata uno dei punti focali della rivolta, e mentre torna a casa si imbatte in cadaveri e spari. Ma non sono questi incidenti che osserva in prima persona a spingerlo a scrivere la storia di Operazione Massacro, anche se la sua memoria si accende immediatamente quando, 6 mesi dopo, sente quella voce nello stesso caffè. Hay un fusilado que vive. Juan Carlos Livraga è il nome del fucilato vivente. La sua guancia e la sua gola sono perforate. Quando Walsh lo trova, non sa ancora che in realtà ci sono 7 risorti. Sono i sopravvissuti alle esecuzioni che il regime del generale Aramburu ha perpetrato nella città di Buenos Aires, di José León Suárez e di Lanús. Sono i morti viventi di un'operazione che ha tolto la vita a 5 civili, del tutto ignari della rivolta di Valle in quel fatidico 9 giugno 1956. Rodolfo Walsh era un risoluto scrittore di romanzi polizieschi e un intraprendente divulgatore culturale quando, nel dicembre del 1956, qualcuno pronunciò la frase che avrebbe cambiato la sua carriera e lo avrebbe innalzato all'altare dei grandi maestri della letteratura e del giornalismo di lingua spagnola. «Hai un fusilado che vive», ha sentito dire nel bar dove era solito giocare a scacchi. Il commento non era del tutto corretto. Dal primo fucilato si passò a un secondo, poi a un terzo, e si scoprì che c'erano 7 persone a cui avevano sparato e che erano ancora vive. Walsh, che proveniva da un ambiente conservatore cattolico, si è poi immerso in una meticolosa indagine sulle esecuzioni compiute durante la rivolta del generale Valle nel giugno 1956. Il risultato fu Operazione Massacro, un'opera di culto del giornalismo di denuncia e che, come tale, incontrò non poca resistenza al momento della pubblicazione. Questa è la storia che scrivo a caldo e di getto, perché nessuno mi preceda, ma che poi, giorno dopo giorno, mi si sgualcisce in tasca, perché la porto in giro per tutta Buenos Aires e nessuno me la vuole pubblicare. Anzi, nessuno ne vuole sapere nulla. Il fatto è che si arriva a credere ai romanzi polizieschi che si sono letti o scritti e si pensa che una storia così, con un morto che parla, nelle redazioni se la strapperanno di mano. Si pensa di essere in corsa contro il tempo e che da un momento all'altro un grande giornale manderà una dozzina di reporter e di fotografi come accade nei film. Invece ci si trova davanti a un fuggi-fuggi generale. Da Operación Masacre. Con l'aiuto della giovane reporter Enrichetta Muñiz, Walsh raccoglie documentazione nei tribunali e nelle stazioni di polizia della provincia di Buenos Aires. Con la pazienza di un entomologo, ricostruisce l'intera trama dell'operazione Massacro. In primo luogo, ci presenta le vittime di questo complotto, gli operai del quartiere Florida, nel distretto Vicente López di Buenos Aires. E poi racconta gli eventi del 9 giugno in una prosa vertiginosa, agile e lapidaria. L'arresto a sorpresa, l'angoscia degli operai, il trasferimento nella discarica di José León Suárez, il disinteresse della polizia, l'esecuzione grottesca e mal riuscita e come 7 dei 12 detenuti riescono a fuggire di notte o fingendosi morti. Livraga verrà colpito più volte a bruciapelo, ma nessuno lo ucciderà. Aramburu fu responsabile di una politica di classe il cui fondamento, lo sfruttamento, è disumano in se stesso e i cui episodi di crudeltà ne sono la diretta conseguenza. Le sue perplessità, quando era ormai lontano dal potere, illuminano appena lo sfasamento tra gli ideali astratti e gli atti concreti dei membri di quella classe. Il male che fece lo si vide nei fatti e il bene che pensò fu solo un tardivo sussulto della coscienza borghese. Aramburu era obbligato a fucilare e a proscrivere, allo stesso modo in cui i suoi successori, fino ad oggi, si sono visti costretti a torturare e ad assassinare per il semplice fatto di rappresentare una minoranza usurpatrice che solo attraverso l'inganno e la violenza riesce a rimanere al potere. Da Operación Masacre. 20 anni dopo la sua pubblicazione, Walsh sarebbe diventato un obiettivo prioritario del regime civile-militare che prese il potere con la forza nel 1976. Ufficiale di spicco dell'organizzazione armata Montoneros, con gli pseudonimi di Esteban y Neurus, lo scrittore si era evoluto politicamente nel corso degli anni ed era determinato a portare fino alle ultime conseguenze il suo impegno nella lotta rivoluzionaria. Quando, nel marzo del 1977, fu vittima di un'imboscata da parte di una task force della dittatura, portava con sé una valigetta in cui, ore prima, aveva conservato diverse copie del suo testamento letterario. Carta abierta de un escritor alla Junta Militare. Lettera aperta di uno scrittore alla Giunta Militare. Portava con sé, legato all'inguine, un revolver, che avrebbe usato prima di essere ucciso all'angolo di una strada di Buenos Aires. La censura della stampa, la persecuzione degli intellettuali, la demolizione della mia casa a Tigre, l'omicidio di cari amici e la perdita di una figlia che è morta mentre vi combatteva sono solo alcuni dei fatti che mi costringono a questa forma di espressione clandestina. Dopo che per quasi 30 anni mi sono pronunciato liberamente come scrittore e giornalista. Il primo anniversario di questa giunta militare è stata l'occasione per fare un bilancio della condotta del governo nei documenti e discorsi ufficiali in cui quelli che voi chiamate risultati sono errori, quelli che riconoscete come errori sono crimini e ciò che tenete nascosto sono calamità. Queste sono le riflessioni che nel primo anniversario del vostro nefasto governo ho voluto far arrivare ai membri di questa giunta, senza aspettarmi di essere ascoltato e con la certezza di essere perseguitato, ma rimanendo fedele alla promessa fatta molti anni fa di rendere la mia testimonianza nei momenti difficili. Da carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Il nome di Walsh è iscritto con lustro nel ristretto elenco di coloro che hanno anticipato il processo di identificazione della cosiddetta no fiction che ha avuto luogo a metà degli anni 60, quando Tom Wolfe e Truman Capote hanno pubblicato le loro prime opere di riferimento. Ogni autore ha apportato al genere le proprie caratteristiche stilistiche e concettuali. Le indagini di Walsh, con una valanga travolgente di dati e fonti, sono narrate con la penna di un eccellente scrittore che si era già cimentato nel romanzo poliziesco. Ritmo, suspense e una calcolata economia di linguaggio, un mortaio letterario a cui Walsh aggiunse anche la denuncia sociale. Le opere di Rodolfo Walsh, tradotte all'italiano, sono Operazione Massacro, edito da La Nuova Frontiera nel 2011. Fotografie, edito da La Nuova Frontiera nel 2014. Tre portoghesi sotto un ombrello, senza contare il morto, edito da Gallucci nel 2017. Spazio, estate, viaggi. Case e i palazzi di una strada all'inferno si vede una stella tanto bella e violenta che si dovrebbe vergognare. Televisori e cucine così uguali come i denti di bocca di uno venuto dal centro in cerca di un dramma da annusare. Cucciolo Alfredo avvilito, appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale. Con gli occhi per terra la gente prepara la guerra. C'è guerra nei viali del centro, dove anche il vento è diverso. Sono diversi gli odori per uno che viene da fuori. Un grande striscione con uno scudo, una croce e una stella cometa. Fare clam, una dieta. Pistola alla mano, la città si prepara a sommare il danaro a una giornata più amara. Alla quarta fermata, senza nessuna ragione, scendendo deciso, il cucciolo Alfredo si inventa un sorriso. Sorride uno scherzo di donna a un amico che alle sette di sera, dopo più di tre anni è appena uscito dalla galera. Il complesso cileno affisso sul muro promette spettacolo, un colpo sicuro. La musica andina che noi è mortale. Sono più di tre anni che si ripete sempre uguale. Mentre il cucciolo Alfredo canzone diversa, ma canzone d'amore. Cantata tra i denti, da cuore a cuore. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano, ce ne andremo lontano. E finisce qui la prima puntata di Spazio Estate Viaggi, format estivo che tornerà la prossima settimana. Nella prossima puntata continueremo a raccontarvi del viaggio in bicicletta tra Buenos Aires e Lima. Inizierà la pedalata a tutti gli effetti e ci sposteremo di circa 250 km per arrivare nella città di Rosario, dove abbiamo raccolto delle altre interviste. Non mancherà naturalmente la rubrica di Mirko e della musica a tema. Per questa puntata ringraziamo per aver partecipato Lucia Macagno e Gianluigi Gurgigno di Barricada TV. E poi ringraziamo anche Fernanda per averci prestato la voce nell'intervista. Ricordiamo i contatti Facebook e Instagram per interagire con questo programma: donpairs.it. Donpairs.it. Potete trovare tutti gli episodi di Spazi Estate Viaggi sul sito internet di Radio Onda d'Urto. A risentirci alla prossima puntata e restate all'ascolto. Pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista dance popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Lucha de clase. Se hace la clave y el pase la llave pa' que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Lo chulo y quemado.